Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Sembra che l'edilizia che sta uscendo dalla crisi sia un po' diversa da quella che ci è entrata. Questo almeno a giudicare da vari segnali, tra cui i numeri dell'osservatorio CRESME, il Centro di Ricerche Economiche e Sociali di Mercato per l'edilizia e il territorio, numeri elaborati insieme ad ANIMA, Federazione Nazionale dell'Industria Meccanica, e insieme ad ANIE, Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, di cui abbiamo in linea il presidente Claudio Andrea Gemme. Buonasera Gemme. Buonasera. Allora, c'è stato questo rapporto, questa ricerca del CRESME. Come va, insomma, il settore degli impianti tecnologici all'interno del settore dell'edilizia? Devo dire che il segnale è un segnale di crescita. Poi i numeri in questo elaborato che abbiamo chiamato BTEC, no, è stato costruito in modo tale maniera per far vedere i differenziali e le crescite rispetto ai volumi che si erano visti negli anni precedenti. Cioè, perché abbiamo una dinamica di tutto il settore dell'edilizio che va in discesa, che è andata in discesa negli ultimi anni. Quindi bisogna vedere dentro questa dinamica cosa succede agli impianti, no? E questo sì, è un po' il punto. La tecnologia ha dato sicuramente una mano, la necessità. Tutte le imprese, soprattutto quelle elettriche e elettroniche, ma anche quelle che riferiscono a ANIMA, hanno investito molto in ricerca e sviluppo. ANIA ha investito il 4% in ricerca e sviluppo in modo continuativo, no? Il ritorno è su un impianti che hanno singolarmente un valore più elevato, la tecnologia evidentemente è necessaria in diversi settori, ce ne sono un paio, ad esempio, che ci hanno dato particolare soddisfazione. Ecco, perché in generale c'è questo macro numero per cui sul costo di costruzione globale di un fabbricato gli impianti sono passati ad avere un peso che prima era del 9,8%, oggi sono il 14,4% del costo di un fabbricato. Bisogna anche vedere se non è l'effetto della perdita di valore dei fabbricati, ma insomma comunque è un dato questo significativo. E diceva, ci sono dei settori che hanno trainato comunque. Il settore trainante in generale, sia per le nuove costruzioni che per le vecchie costruzioni. Se noi guardiamo le nuove costruzioni nel 2014, il mercato era rappresentato da circa 103 miliardi, la manutenzione ha avuto 36 miliardi in aggiunta a questo valore. Allora, su questi due, su 140 miliardi, la sicurezza, ma in particolare il risparmio energetico, sono stati i due settori che hanno trainato di più. Insomma, questo è. Ok, d'accordo. Sicurezza, quindi tante telecamere da una parte, e poi dall'altra risparmio energetico. Che cosa è risparmio energetico? In particolare qualche tecnologia più forte? Beh, diciamo che tutti poi con il fotovoltaico hanno trovato delle soluzioni, eccetera. Però le tecnologie a LED, i settori diciamo dell'illuminazione, hanno avuto sicuramente anche l'applicazione di alcuni apparecchi che poi alla fine di per sé hanno dato la possibilità di fare un saving energetico, quindi consumare meno. Il tema vero è il costo dell'energia, che è esagerato, insomma, le tasse che sono che insistono sul costo dell'energia sono esagerate. Questo è un tema, però in generale questo ci ha dato una mano. Un dato significativo, almeno evidente, è che diciamo il grosso della produzione è andato all'estero, si è installata meno di questa tecnologia, alta tecnologia di cui parlavamo, in Italia. E perché l'Italia che è poco ricettiva, o siete così bravi che insomma vendete le vostre robe dappertutto? Beh, intanto gli investimenti devono avere un loro ritorno, no? Certo. Essendo assente il mercato italiano, abbiamo trovato fortunatamente i mercati all'estero che hanno raccolto la nostra capacità di innovazione, quindi la tecnologia ci ha aiutato. Ci sono dei settori nella microelettronica, alcune fabbriche che sono riuscite a vendere il 98% del loro fatturato all'estero, no? Quindi poi evidentemente che questi numeri, no, che noi vediamo sono la media pesata dei diversi settori. Certo. Alcuni settori che hanno trovato ovviamente addirittura negli Stati Uniti una una crescita importante. A un certo punto voi dite, beh, in questo settore, soprattutto quello delle nuove tecnologie, quello a più alto grado di innovazione, è destinato a crescere ancora più rapidamente, sempre che non ci siano troppi freni di natura burocratica ed economica. Di che cosa parlate? A che cosa vi riferite? Ma è chiaro che i tempi di approvazione dei progetti sono sempre, diciamo, drammaticamente lunghi. In Italia il tema della sburocratizzazione, delle autorizzazioni è un fatto impellente, bisogna farlo, non è immediatamente. Va bene, grazie Gemme. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.